sistemando adesso per poter modulare l'acqua, diciamo così, che non è altri, quindi mi ho dovuto mettere questo per forza, capito? Aspetta, mi sistemo il cavo un attimo. Ma comunque stavo guardando e quegli apparecchi lì hanno un software dentro, lo sai? Non so che c'è un software. Non ce l'ho dirgli niente. Infatti, la cosa che mi rompe la scatola è che non gira il coso delle città come il tuo. Bisogna dirgliela quella lì. Il giorno che ho un momento di tempo, al telefono glielo dico a vedere perché non gira qua. Come non gira? In che senso? Gira, rimane fisso su A1. O di un sia, boh. Vabbè, io ho un po' diverso, eh. Io c'ho il codice. No, quell'altro che c'ha tuo padre gira, rimane su RU e poi se lo vuole cambiare lo cambia. Per esempio non so come mettere i canali acqua qua io. Che ha fatto? È portatile, stai dicendo tu. Io? È convinto di far spiegare il lavoro al tecnico. Infatti. Perché ho provato ma non l'han preso e quindi non c'è nulla da fare. Ah, sì, sicuramente hanno bloccato il sistema. Allora hanno bloccato Eddie, di base hanno fatto qualche cosa ma rimane fisso. Ma a me fisso non mi piace così. Se voglio già andare, lo posso già andare. Dovrebbero essere 3 giorni freddi. Quindi la mamella. Sì, anche ho compreso. Che cappagallo, ce la trovo io qua. Che cosa? La merla. Cosa fa voi la merla? E chiamano così i giorni della merla. Siamo gli origiani, Mi raccolazioni, cioè. Mia moglie non si chiama merla. Ma tu ti chiami merla e sei il marito della merla. Intanto, se la trovo in giro, la merla può essere un'altra donna. Dicono così i giorni della merla. E dice, fa tutto il tempo. Andà bene nera, ci diremmo che mi rovinia, la giovinza di canto di te, tieni, di il tempo vero. La maestra Maria. Aremma buscaglione. Emma bucagliola, cazzo. Ah, io sono a dolore di schiena, non sarà che mi viene di qualche cosa, cazzo, mi ha dolore. Già 3 giorni sono così. Ma che cosa? Ma quando mai? Ma già, quella con Chirruia, figa. C'è con Chirruia girati la manico di baracca. Mi dormi, mio, tu immagini, già, la dolce non mai fa. E così anche. Gamba, non si è. Cazzo, ma di schiena. No, non ho compreso la chiesa. Ma sono 3 giorni così. Occhio a colpo freddo, a... Okay.